Sono qui con Massimo Tiburli Marini di Kilowatt, buongiorno. Ciao, buongiorno. Grazie per la disponibilità. Ma grazie a voi, siete sempre qua. Allora, nona edizione della rassegna estiva di Kilowatt, con qualche novità, con qualche cambiamento, ti va di raccontarcelo? Ah beh, sicuramente il primo cambiamento sta nel nome. Dopo 8 anni di Kilowatt Summer, di cui gli ultimi 2 in pandemia, abbiamo deciso di cambiare linguaggio, cambiare nome, a partire dal nome, quindi da quest'anno non sarà più Kilowatt Summer, ma le serre d'estate. Che meraviglia, già si respira profumo d'estate oggi. Vabbè, oggi sì. E quanta gioia c'è poi nel ritornare finalmente a fare un po' di eventi in presenza. Sì, ne avevamo tutte una gran voglia, è troppo tempo che non sentivamo più musica, troppo tempo che non vedevamo più film, troppo tempo che non facevamo più incontri per parlare di cose che ci interessano, quindi sì, dai, siamo molto contenti. Tra l'altro questo progetto di Le Serre d'Estate rientra un po', ci tengo a dirlo, in un percorso che stiamo facendo come Kilowatt di un po' di ridefinizione delle nostre varie aree. Potete trovare questo anche nuovo mondo visivo nel nostro nuovo sito che è leserredegiardini.it, all'interno del quale ci sarà anche il programma della nostra, certo, rassegna estiva. A proposito del programma, che cosa ci vuoi raccontare? Qualche evento? Allora, vi racconto qualche highlights sulle cose, sulle novità più importanti. Allora, innanzitutto c'è il grande ritorno di Capsula, il design market delle serre, che inaugura la stagione questo weekend, quindi segnatevelo, 14-15 maggio, più di 70 espositori, c'è stata una ressa per riuscire. Quindi all'interno del weekend, oltre a il design market, ci saranno concerti, ci saranno momenti di incontro e di socialità. E poi un'altra cosa molto bella è questa, nasce dalla collaborazione con la piattaforma di cinema d'autore Mubi, ed è questa rassegna che si chiama Lei, libera, emancipata e indipendente. 10 film che partiranno a maggio e copriranno fino a settembre. 10 film al femminile che ci portano sullo schermo la nuova leva delle registe donne che finalmente stanno avendo accesso al sistema produttivo cinematografico, rinnovando linguaggi, le stiamo vedendo finalmente vincere i più grossi festival. Sarà uno spaccato delle nuove, più interessanti secondo noi e secondo Mubi, produzioni al femminile. Questo è un'altra cosa che rimane in tema diciamo di genere, di questioni di genere, è una rassegna che si chiama Plurali Femminili, questa volta in collaborazione con un altro nostro partner storico che è Cefa Onlus. Qua in questo caso saranno 6 serate a tema dove cercheremo di raccontare con una prospettiva intersezionale la dimensione del femminile, della migrazione e delle discriminazioni di genere, attraverso incontri, presentazioni di libri, anche qua cinema, performance. Ci tengo a sottolineare che la direzione artistica di questa rassegna è di Wissalu Babi, che è una giovane scrittrice, performer, artista italo-marocchina, che porta un punto di vista molto, molto innovativo, molto forte. Poi altre 2 cosine al volo, certo. Insieme a Confraternita dell'Uva e con all'interno del Patto per la Lettura di Bologna, Fuori Leggere, un piccolo format dove racconteremo la storia di 4 case editrici indipendenti, quindi non presentiamo libri ma presentiamo chi i libri li pubblica, che saranno intervistati da Francesco Locane e racconteranno un po' la loro esperienza, i successi, i fallimenti, le tematiche che trattano, portando 5 libri della loro produzione assolutamente da non perdere. Cos'altro? Beh, no, niente, è importante ricordare che abbiamo sempre una parte dedicata al programma dedicato ai più piccoli, alle famiglie, quindi a cura di Kilowatt Baby, che è il nostro servizio educativo 06, che rivedrà il nostro storico format I racconti del leone, che sono tutti mercoledì dalle 18 alle 19 per la lettura di albi illustrati. E poi una bella novità che nasce da una collaborazione con Garden Bo, che è la gelateria che sta qui al nostro vicino. Siamo riusciti a organizzare con loro una rassegna di arte di strada che si chiama Baskers Park, che porterà spettacoli di arte di strada per bambini e famiglie su 2 palchi, uno quello davanti alle domeniche, tutte le domeniche, con uno spettacolo alle 5 davanti a Garden Bo e uno spettacolo alle 19 qui da noi. Beh, che meraviglia, insomma, crescono i partner, crescono gli eventi, veramente ci aspetta una bellissima rassegna estiva e quindi io, Massimo, ti ringrazio. Bene, posto così, grazie mille. Grazie a voi.